giorno di Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno e naturalmente buon Natale a tutti. Probabilmente in questo momento state mangiando, come si dice, una vecchia espressione, a quattro palmenti, e magari ci state ascoltando. Oggi, come ben sapete, in questo periodo effetto giorno, più che stare sulle notizie, cerca di approfondire, le notizie stesse, oppure di raccontare storie o di tornare su storie sulle quali, delle quali ci siamo occupati nel corso dell'anno. Chissà quanti di voi con la fine dell'anno che si avvicina stanno pensando ai propositi per l'anno successivo, e chissà quanti di voi stanno pensando che forse è il caso di lasciare il paese. Naturalmente sono tanti, sono sempre di più gli italiani che decidono di emigrare, anche a causa degli ultimi 5 anni di recessione. Durante l'anno, in settembre per essere esatti, ci siamo occupati di una vicenda particolare. È la vicenda di un comune che si chiama Elmas, che è in provincia di Cagliari, ad un passo da Cagliari in realtà, in Sardegna dunque, che ha deciso di fatto di finanziare i suoi cittadini che volessero andare all'estero. Naturalmente non è un finanziamento fisso, è una sorta di contributo spese iniziale. Questo comune ha deciso di aprire un bando. Avevamo incontrato all'epoca il sindaco di Elmas, avevamo parlato con lui e gli avevamo dato appuntamento, abbiamo detto ci risentiremo per sentire come questo bando è andato e come ha funzionato. Allora, torna dunque da noi Walter Piscedda, sindaco di Elmas. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, salute. Allora, come sono andate le cose da quando ci siamo sentiti? Quindi parliamo da quando, dal momento nel quale è partito il progetto, circa un paio di mesi fa. Sì, se posso, prima di parlare di quello, vorrei dire, è una questione di verbi, non incentivare, ma sostenere. Nel senso che noi non abbiamo deciso e cercato noi le persone per andare fuori. Abbiamo risposto a chi ci chiedeva di voler andare fuori e ci diceva di non avere la possibilità. Sì, sì. A livello di dati. Sindaco, mi permetta, forse ha ragione lei dal punto di vista lessicale e non per entrare in polemica. È vero che se tu fai sapere che come comune offri una certa cifra di denaro a chi si vuole spostare, alla fine diventa comunque un incentivo, insomma, anche se i primi sono quelli che ve l'hanno chiesto prima che l'incentivo ci fosse. Comunque, insomma, su questo è una discussione sulla quale potremmo andare avanti all'infinito. Invece io voglio sapere come è giustissimo, ma la volevo ringraziare per la domanda, perché la miglior risposta è stato l'esito. Nel senso che a chiusura del bando, su 2098 tra disoccupati e inoccupati che noi abbiamo ad Elmas, si sono presentati in 13. 13 ragazzi hanno fatto la domanda per avere questa possibilità. Di questi 13, una persona non aveva i requisiti, una ha rinunciato, quindi sono rimasti in 11. Quindi questo proprio dimostra che non è un incentivo del comune, ma era una scelta, cioè queste cose si fanno se c'è una scelta di vita di fondo da parte della persona. Evidentemente. E come se lo spiega che così in pochi abbiano risposto, sindaco? Cioè c'è, come dire, una questione, se vogliamo, da una parte di attaccamento alla terra, ma quello è un ragionamento emozionale, perché poi quando non si ha un lavoro non si ha un lavoro, molto semplicemente non hanno giudicato bastevole l'incentivo o il rimborso spese, chiamiamolo come vuole lei. Ma la risposta che mi sono dato io è questa: intanto era l'ultimo di diversi interventi che abbiamo fatto, quindi penso che la maggior parte avessero scelto i precedenti interventi. Mi riferisco ad esempio all'inserimento di giovani in azienda. Abbiamo pagato noi come comune l'inserimento per 6 mesi di 130 giovani in azienda, proprio per fare esperienza lavorativa. La maggior parte penso che abbiano scelto quelle. Mi ricordo che questo ce l'aveva già raccontato a settembre. Esatto. Sì. La seconda motivazione, penso l'abbia in qualche modo detta lei, l'essere sardi è una malattia, una bella malattia di cui anch'io sono affetto. Non amiamo spostarci e se ci spostiamo lo facciamo per ritornare. La terza è che probabilmente le misure poste in campo negli ultimi mesi della Regione Sardegna stanno cominciando a dare i propri effetti. ad esempio, questo discorso di garanzia giovani è stato finanziato con oltre 50 milioni di euro percorsi lavorativi e formativi e lavorativi per giovani sotto i 29 anni. Un'altra misura è stata bandita per quelli che vanno dai 40 in su, e proprio in questi giorni è uscita la notizia che anche la fascia d'età intermedia verrà coperta. Sì. Penso che queste tre motivazioni insieme abbiano spinto a vedere un'alternativa all'andar fuori. E questo è un punto interessante. Allora, c'è in studio con noi il nostro Sergio Nava, in onda tutti i sabati alle 13.30 con Giovani Talenti, il racconto delle nostre teste che vanno all'estero, dei famosi cervelli che vanno all'estero. Allora, innanzitutto, Sergio, ti chiederei che cosa ne pensi di questa iniziativa del comune di Elmas, e poi ti vorrei chiedere un po' di numeri, perché tu ce li hai sotto mano, li tratti tutte le settimane, vorrei capire da te che numeri abbiamo di italiani che se ne vanno. Sì, ciao Simone, innanzitutto ne avevo letto all'epoca, e devo dire, poi ti chiederemo conferma anche al sindaco, però quando se ne parlò si disse anche che era un incentivo, sia come dire a provvedere per i primi periodi all'estero, però era anche un incentivo a formarsi fuori e poi tornare e mettere in piedi qualcosa nella propria terra, in Sardegna. È così, sindaco? Assolutamente sì, ha azzeccato, nel senso che il concetto di base era che non possiamo pensare di bastare a noi stessi, la Sardegna non può pensare di bastare a se stessa. Per cui se i ragazzi vedono in un'esperienza all'estero la possibilità di accrescere il proprio bagaglio formativo e anche lavorativo, noi lo abbiamo sostenuto, quindi abbiamo scelto, abbiamo voluto che prima facessero un corso di lingua intensivo pagato da noi, poi abbiamo dato una piccola dotazione iniziale, stiamo parlando di 500 euro per le prime due settimane lì, e poi ciascuno dovrà camminare esatto, con le proprie gambe. Ognuno se la cavi da solo, esatto, a quel punto, esatto. Insomma, no, certo. Sergio, vai con i numeri. Beh, allora, i numeri purtroppo parlano di, parliamo a livello nazionale, circa 94.000 italiani espatriati. Questi sono i dati AIRE, perché poi i dati Istat parlano di 82.000. Già lì, insomma, ci si rende conto di quanto siano imperfette le nostre banche dati. Parliamo di italiani espatriati nel 2013, tra l'altro. Probabile il doppio, quindi tra i 160 e 180, forse anche più. La meta, che ha avuto un balzo veramente incredibile, e forse poi il sindaco ci dirà anche cosa dalla Sardegna, se è attraente anche per i giovani sardi, è la Gran Bretagna, in particolare Londra, che ha avuto un boom spaventoso nel 2013, più 71% e più 81% tra i 20 e i 40 anni. L'Europa resta però il continente dove emigra il 60% e più degli italiani, quindi resta la principale calamita. Poi ci sono gli Stati Uniti, poi anche altri paesi. Ultimamente molto anche verso la Germania, Sergio, se non sbaglio. La Germania è stato un paese che aveva il primato prima della Gran Bretagna, resta il secondo paese di espatrio, però è incredibile vedere quanto la Gran Bretagna all'improvviso, da un anno all'altro, sia diventata la meta preferita. Resta comunque la Germania. Come te lo spieghi questo? Ma sicuramente c'è forse un po' possiamo definire la moda, forse un po' esagerato, però il fatto che si sparge la voce, si dice a Londra ci sono tanti italiani, ci si dà una mano, c'è una forte comunità, e allora si va anche nella speranza di imparare l'inglese, trovare un primo lavoro di qualsiasi tipo, perché all'inizio erano soprattutto persone giovani, magari anche qualificati, e poi devo dire negli ultimi anni ormai chiunque ha un problema in Italia a trovare lavoro, e questo purtroppo è un problema gravissimo, emigra ormai, se ha chiaramente anche, come dire, l'attitudine a farlo, perché certo. Molti poi decidono di restare, e c'è chi resta e prova a mettere in piedi qualcosa, e c'è chi resta e purtroppo si accontenta. Sindaco, gli 11 dove sono andati? Ecco, esattamente a Londra. Non tutti gli 11. Tutti sono partiti solo in tre, gli altri sono ancora sotto, stanno ancora facendo il percorso del corso di lingua. I tre che sono già partiti sono andati a Londra, e le parole chiavi le ha dette l'amico prima: speranza, e io ci aggiungo fiducia. Sono le due componenti fondamentali. Si ha l'idea che lì le cose funzionino velocemente, trovi lavoro, e se lo perdi ne trovi un altro. Magari anche le poche tasse magari sono attraenti, tutto sommato. Sì, ma infatti poi questo nostro progetto è nato in quel periodo in cui si parlava in Italia dell'articolo 18, dell'abolizione dell'articolo 18. La maggior parte di questi non sa manco cos'è l'articolo 18, perché non aveva mai fatto un giorno di lavoro, quindi si figuri. La possibilità concreta di avere un lavoro l'hanno presa subito al volo. E Sergio, tu hai idea se stia funzionando questa garanzia giovani? No, oppure... no, purtroppo non sta funzionando a livello nazionale, non parlo a livello regionale, però c'è stato anche recentissimamente un sondaggio di un sito specializzato, la Repubblica degli Stagisti, che ha di fatto dato un 4 a Garanzia Giovani, ma non è solo quello, se guardiamo poi i dati di Garanzia Giovani ci dicono che siamo sulle circa 7.000 offerte realmente attive sul portale, di cui la qualità poi è spesso molto bassa, per cui abbiamo più di 300.000 iscritti, un tot di profilati, ma poi alla fine se andiamo a vedere nel concreto le offerte sono poche e di bassa qualità, e non solo, stando a questo sondaggio della Repubblica degli Stagisti, la maggior parte, circa l'80% dei giovani che sono andati a questi colloqui organizzati dalle varie agenzie per l'impiego sono tornati a casa con promesse molto molto vaghe e assolutamente poca certezza sul futuro. Quindi se il senso era entro 4 mesi fornire un'occasione concreta di studio ed occupazione ai giovani disoccupati, al momento, purtroppo va detto, perché è un programma che partiva con ottime basi e premesse, purtroppo non sta funzionando. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, storie si diceva, vi abbiamo raccontato prima quella del sindaco di Elmas, del finanziamento ai cittadini di Elmas che vogliono andare all'estero, un bando al quale hanno aderito, come avete sentito, solamente in 13 e poi 11 effettivamente sono partiti, sono stati giudicati idonei o stanno per partire. Noi adesso continuiamo a parlare di lavoro, ma sempre in una chiave diversa, in una chiave di racconto, ripeto, in una chiave di storia che in questa giornata di Natale probabilmente ci sta particolarmente bene. E andiamo a parlare di Pavia. Che cosa succede a Pavia? A Pavia si è creato un circolo virtuoso, che tiene insieme la diocesi di Pavia e gli industriali di Pavia, la creazione di un marchio made in Pavia, ma non solo, anche un progetto di reinserimento di lavoratori nelle aziende. Un'interpretazione molto forte, per così dire, molto interessante di quella che è la pastorale del lavoro della Chiesa. Abbiamo il responsabile della pastorale del lavoro della diocesi di Pavia, Don Franco Tassone, in linea con noi. Benvenuto Tassone. Grazie. Io partirei innanzitutto da come siete arrivati a tutto questo, perché mi risulta, quel che abbiamo letto sui giornali, la storia è stata raccontata dal Corriere della Sera, che prima di arrivare a questo, prima di ospitare nel complesso della Chiesa il Sacro Cuore, questo appuntamento di Made in Pavia, ci sia stato un lavoro dietro che lei stesso ha iniziato per la riqualificazione di alcuni operai nell'area, mettendosi proprio d'accordo con gli industriali. Ci spiega come è andata la cosa? Intanto ringrazio per questa opportunità, perché a volte raccontare come si crea lavoro o come si organizzano delle reti di impresa può essere facile per gli addetti ai lavori. Da 2 anni sono responsabile della pastorale sociale del lavoro di Pavia con il vescovo Monsignor Giovanni Giudici, che è un uomo molto illuminato, ha lavorato tanto con il cardinal Martini e da quando è vescovo di Pavia è stato molto attento al sociale. Ed è anche laureato alla Bocconi, abbiamo letto, aggiungiamo. Chiaramente okay. questa cosa ha colpito tutti. Certo. E ha fatto laureare anche noi tutti, nel senso che tutti noi siamo sempre in continua formazione con la dottrina sociale della Chiesa per coniugare i valori teologici della fede, speranza e carità con la prassi concreta di un'economia solidaristica. Sì. In poche parole, in questi anni, proprio per la diffusione della disoccupazione, il nostro è un distretto che ha subito perdite di industrie importanti, la Neschi, la Vigorelli, se lei pensa solo alle macchine da cucire, ma che ha un solo grande comparto oltre all'università, che è la sanità, e abbiamo raccolto in 5 mesi con il progetto Amico Lavoro della Filca Cisla, l'unico che funzionava in Italia, perché lei sa che la raccolta dei curriculum e la destinazione al lavoro non funziona, quello che è dato ai centri per l'impiego. Abbiamo raccolto in 5 mesi 1.000 curriculum di gente che non aveva lavoro. Questa attenzione pastorale, se mi permette, ha coniugato il fatto di... Cioè, lo avete fatto, lo avete fatto proprio voi della diocesi, cioè avete raccolto questi mille curricula e ve li siete presi, avete iniziato a lavorare per il reinserimento di queste persone, in sostanza. Lei pensi che il vescovo ha messo a disposizione una quantità di soldi e noi abbiamo fatto lavorare quattro persone massicciamente formandole perché potessero ascoltare queste persone e rifare il curriculum di lavoro in modo che esplodesse e potesse esplodere nel senso di dire se sei in mobilità per il datore di lavoro è un'occasione per risparmiare fiscalmente e così via, cioè le varietà e le tipologie dei contratti in questi cinque anni in cui abbiamo avuto cinque riforme del lavoro, lei si immagina certo. Come possono essere diversificate. E certo, mi faccia capire, non solo curricula di operai appunto, ma un po' di tutto mi sembra di aver capito da quel che ci diceva lei. Sì, lei sì. Se mi dovesse telefonare, dice guardi Don Franco, ho bisogno di 10 magazziniere, io le mando un elenco di 100 persone, ho bisogno di 3 tributaristi, ne ho mandati 18, ho bisogno di 10 imbianchini, cioè questa cosa qui ci ha permesso di fare un lavoro di sensibilizzazione sul territorio. Siamo andati con la Confindustria, il dottor Reina, a visitare delle aziende, in particolare quelle di questo, diciamo così, questa rete di impresa sono state sollecitate da noi, nel senso che li abbiamo visitati, abbiamo conosciuto le loro esigenze, cioè questi mi hanno parlato, hanno fatto in modo che questa attenzione della Chiesa permettesse loro di dire, vedi che l'imprenditore non è solo uno che sì. Pensa al profitto, è avulso dalla realtà sociale, ma noi gli facevano vedere, abbiamo a cuore le famiglie, l'istruzione dei figli, cioè questa dinamica di responsabilità sociale noi l'abbiamo verificata sul campo. Sì. E questa verifica sul campo mi ha portato, sempre con la Confindustria, ad appoggiare ciecamente un'idea di dire mettiamo insieme queste imprese. Veramente stupisce che sono diversificate, non hanno quindi omogeneità di prodotti e di produzione, ma un desiderio grande di uscire dalla crisi insieme. Sì. Per cui la volontà valoriale di mettersi insieme, siccome sono 12, io dico come i 12 apostoli, era gente molto semplice, capisce che faccio sempre il mio lavoro io. Certo. Cioè questi si sono messi su, tirandosi sulle maniche, e hanno detto facciamo una mostra dei nostri prodotti con questa tipologia di attenzione, dire noi ci teniamo alla responsabilità sociale, alla sicurezza, alla formazione dei nostri operai, quindi al posto di lavoro. Se noi potessimo non licenziare nessuno, anzi, e qui arriva l'ultimo progetto sì. Che il vescovo Monsignor Giovanni Giudice ha lanciato il giorno di San Siro, che è quello compra lavoro. Nel senso, abbiamo detto a tutti gli uomini di buona volontà e alle donne di buona volontà, con 10 euro noi andiamo all'INPS, compriamo un voucher, che è un buono lavoro, sì. Dove c'è la previsione pensionistica, ma anche il tributo da dare giustamente all'operaio che lavora. Sì. Questa cosa qui, che nasce da un vescovo, che ha una sua pastorale sociale del lavoro, ha sconvolto tutti. Quando è stata lanciata questa iniziativa? Che è, devo dire interessante, insomma, ecco, ci consente di dare un'opinione molto meglio di un'elemosina, tutto sommato. Insomma, No, per noi è finalizzato. Quando mi telefonano i preti, cos'è il voucher? Io dico sempre, scusate, quando andate a fare una vacanza, quando andate a prendere un sì. servizio, il voucher vi viene dato per dire hai la disponibilità di spesa, no? Sì, lo spieghiamo, Don Tassone, lo spieghiamo agli ascoltatori perché purtroppo, nonostante noi abbiamo anche tanti imprenditori all'ascolto, non molti sanno che esiste questo meccanismo. Per una serie di lavori, tra cui anche alcuni che ha citato lei, ma per esempio le babysitter, le golf, non solo, c'è questa possibilità di acquistare un voucher. Con questo voucher che... è erogato, se non erro, dallo stesso Ministero del Lavoro, ma forse anche dagli enti locali, forse dalle regioni. Con questo voucher c'è la possibilità di pagare sostanzialmente un'ora di lavoro o più unità di ore di lavoro senza la necessità di un'assunzione, in sostanza, e dando anche tributi, cioè tasse e contributi, quindi pagando i contributi pensionistici che servono per quell'ora di lavoro o quelle più ore di lavoro. Mi scusi, così l'abbiamo spiegato agli ascoltatori. Prego. Giustamente è molto chiaro e quindi ci aiuta anche a dire bene le cose che facciamo. Prego. Questa cosa qui, certo, deve essere entro un tetto di 2.500 euro, ma sai cosa vuol dire per uno che non lavora da tanto tempo? Avere la possibilità magari di 5 borse di lavoro per lavorare 4-5 mesi. Vuol dire e quindi voi avete, mi scusi, avete richiamato i fedeli della diocesi a dire, la faccio molto brutale perché sono un giornalista, quindi è il nostro mestiere, invece dell'elemosina, per così dire, insomma, no? O in aggiunta all'elemosina, mettete questi 10 euro per pagare un voucher e noi facciamo lavorare una persona per un'ora. Lei sa che dal più piccolo pensionato che ha un sacco di problemi, e voi lo dite molto bene tutti i giorni, all'ultima persona che ha anche magari un'invalidità e quindi che riceve quel poco che lo Stato gli dà, tutti hanno aderito a questa proposta. Per cui io mi permetterò di andare con il Vescovo all'Inps e di dire nominativamente noi abbiamo questi 1000 curriculum, non dico tutti, ma con 12 imprese che hanno costituito la rete Made in Pavia, con tutte le altre che sono state sensibilizzate, perché questo evento sta ottenendo grande risposta. Io vorrei chiudere molto semplicemente chiedendole una cifra. Quanto avete raccolto con questa storia dei voucher? Perché allora, il progetto è molto interessante. No, lei pensa che dal 9 di dicembre sono passati pochi giorni, sono già 21.000 euro. Ecco, quindi per dire che la voce di un vescovo illuminato come Monsignor Giudici, una proposta fatta nel giorno del suo patrono, che ha portato 5 panni e 2 pesci per la fame di molti e hanno avanzato delle forze, ci ha permesso di dire non lasciamo soli queste persone che da molto tempo non riescono a dare dignità alle loro famiglie. Io credo che se alcuni volessero seguire, c'è un sito, il Laboratorio di Nazareth, questa associazione Onlus, che permette anche di avere chiaramente la detrazione fiscale, perché tutto è regolare, tutto è scritto, e chi fa questa donazione può essere meritoriamente chiamato un imprenditore solidale. E ringraziamo Don Franco Tassone per essere stato con noi. Sicuramente torneremo a parlare di questa vicenda perché ci ha interessato, e torneremo a parlare con Don Franco Tassone perché secondo noi il suo racconto molto interessante, è una via nella quale la Chiesa può agire sul territorio ed essere veramente utile ai cittadini, in questo caso agli industriali ma anche ai lavoratori. Adesso ci occupiamo di tutt'altro argomento. In apertura di settimana, nella puntata di lunedì, abbiamo incontrato Erasmo D'Angelis, il capo della struttura di missione Italia Sicura di Palazzo Chigi, quella che si deve occupare di dissesto idrogeologico. Adesso ci occupiamo di un argomento che in parte è correlato a questo, ossia il suolo. Qual è il problema? Il problema è che si parla sempre della necessità di legiferare sul suolo, eppure, ha scoperto la nostra Laura Bettini, l'Italia non è nemmeno in grado di dare una definizione di suolo. Sentiamo. Cos'è il suolo? È forse l'acqua che ci scorre? O le strade che ci costruiamo? No, è evidente. Però è così che per ora viene definito il suolo nella nostra normativa, dove si legge il suolo è il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati, le opere infrastrutturali. Nessuna allusione alla natura non rinnovabile di questa risorsa o al fatto che sia necessaria alla produzione alimentare. Nulla che riguardi la sua composizione o l'interazione e la reazione alle attività umane. Non sono dettagli. Se, come ci diciamo ad ogni alluvione, ad esempio, dobbiamo contrastare il suo deterioramento. Edoardo Costantini è un dirigente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura. La Germania o anche l'Inghilterra, l'Olanda e in parte anche la Francia hanno già una direttiva nazionale per la protezione del suolo. Noi purtroppo non l'abbiamo. Noi abbiamo il testo unico sull'ambiente, dove in realtà il suolo non è considerato come tale, ma solo come una parte più generale del territorio. E ci sono per fortuna in Italia due iniziative molto importanti, due disegni di legge, uno per la riduzione del consumo di suolo e un altro invece per la difesa delle qualità del suolo. Costantini è un ottimista, si vede, dice per fortuna, ma in verità i disegni di legge giacciono in Parlamento da mesi ormai e non possiamo aspettarci niente nemmeno dall'Europa. 8 anni di lavoro hanno prodotto un'ottima definizione di cosa è il suolo, a differenza di quanto accaduto in Italia, ma una direttiva suolo non vedrà mai la luce. Alla fine è prevalsa la convinzione che mentre l'acqua e l'aria si muovono tra gli stati membri, il suolo no. Per cui da una parte diciamo che c'è l'aspetto negativo dato dal fatto che l'Unione Europea purtroppo non si fa carico della tutela della risorsa suolo, perlomeno non se ne fa carico direttamente. Però dall'altra parte c'è l'aspetto positivo che viene data responsabilità agli stati membri, alle popolazioni locali di tutelare il suolo dove loro vivono. Un'opportunità che nel 2014 non abbiamo colto. Speriamo nel 2015. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E a chiudere, come sempre in questi giorni, una delle storie di sport di quest'anno, una storia che ci porta sui pattini, sul ghiaccio, una storia che viaggia tra medaglie e inchieste di doping, è quella di Carolina Kostner. Per il futuro penso che vedremo più avanti, ma non ho in mente di proprio lasciare il pattinaggio del tutto. Doveva essere un anno sabbatico quello di Carolina Kostner. A 27 anni, dopo aver vinto tutto, tra cui 5 ori europei e uno mondiale, e aver coronato una carriera da favola col bronzo olimpico conquistato a Sochi 2014, la regina dei ghiacci aveva deciso di prendersi una pausa per programmare il proprio futuro. Ma l'appuntamento chiave arriverà molto prima di quanto previsto. Già il 16 gennaio Carolina è attesa dalla procura antidoping del CONI a Roma, deferita con la richiesta di 4 anni e 3 mesi di squalifica per complicità e omessa denuncia nella positività dell'ex fidanzato e marciatore Alex Schwarzer. Vicenda torbida che, dopo aver inghiottito uno dei talenti più cristallini della nostra atletica, rischia di sporcare irrimediabilmente immagine e carriera della fatina del nostro pattinaggio artistico. Tradita dal desiderio di proteggere l'ex fidanzato o complice dei tentativi di depistaggio degli ispettori antidoping messi in atto da Schwarzer prima della clamorosa esclusione dai giochi di Londra 2012, la risposta che arriverà dalla procura potrebbe essere per Carolina più dolorosa di qualsiasi caduta. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Effetto Giorno. I ringraziamenti: Carmelo Lauricella in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Effetto Giorno @radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Naturalmente auguri di Buon Natale a tutti da Simone Spezia, ci risentiamo domani alle 13:15.